Allora, sono le 9 e 5 minuti di martedì 11 giugno 2024 e solo per così qualche impressione sul voto, sul post voto e soprattutto su come viene raccontato. Io quello che vedo è ancora una volta la spasmodica ricerca di un titolo a effetto tranchant, autosaturante, no? Che da solo ricomprende e annulla qualsiasi differenza, qualsiasi diversità emersa dal voto europeo, il che è particolarmente tossico, proprio perché in democrazia sono tanti i messaggi diversi che arrivano dall'elettorato, figuriamoci su una scala così grande come l'Europa. Per esempio, ecco, questa corsa al titolo più spaventoso sull'onda nera che invade il continente mi sembra un esercizio di stile, un esercizio forse poetico, non saprei, ma che informa davvero pochissimo, perché forse bisognerebbe cercare di capire, per esempio, quali sono le condizioni che favoriscono il trionfo delle destre in questo o in quell'altro paese. Mi sembra abbastanza chiaro, per esempio, che le destre vadano molto bene soprattutto in quei paesi dove, in quegli importanti paesi dove ancora non hanno governato, dove non sono state messe alla prova, diciamo così, del governo della cosa pubblica, la Francia e la Germania soprattutto. Poi sì, c'è l'Austria, che è un caso un po' particolare e che già ci aveva regalato il brivido di un partito che aveva chiari richiami neonazisti ai tempi di Haider. Però vedete, ai tempi avevamo un presidente della commissione capace di alzarsi in piedi e dire: se questo è il vostro governo, voi siete fuori dall'Europa. Infatti l'Austria rientrò nei ranghi molto educatamente ai tempi. È chiaro che oggi può rialzare la testa quel tipo di consenso nostalgico, e lo può fare perché nel frattempo von der Leyen ha permesso serenamente a Orban di governare l'Ungheria, e con questo tipo di precedente storico, che tra l'altro faceva molto comodo a von der Leyen quando doveva essere eletta in passato presidente della commissione, beh, è chiaro che poi a quel punto è una specie di libera tutti. E a proposito, appunto, di chi davvero sta lottando contro i populismi e i fascismi in questa Europa. Tra l'altro è proprio di questo che stanno parlando in queste ore von der Leyen, Scholz e i suoi amici della CDU in Germania, appunto, capire a quali condizioni potrà candidarsi di nuovo alla presidenza della Commissione Europea. Tornando a Francia e Germania, che mi sembrano le due storie più interessanti, soprattutto la Francia, no? Io non sono granché stupito che Le Pen abbia questo grande exploit in questo momento. Perché? Perché nel frattempo, a proposito di esempi, un paese vicino sotto tutti i punti di vista, diciamo, offre un'immagine di che cosa vuol dire una destra al governo, che per me rimane spaventosa, ma per molti francesi a cui era stato agitato lo spettro di una Francia in orbace che avrebbe saltato nel cerchio di fuoco, avrebbe fatto il salto della cavallina al sabato, perché questo era più o meno l'argomento principale per cui la destra lepenista non sarebbe dovuta andare al governo in Francia, sia con Macron sia con Sarkozy. Erano questi gli spettri che venivano agitati, mentre insomma forse i temi sono altri, e lo vediamo bene in Italia, cioè la totale identificazione della politica con il capitale. È chiaro che una volta, appunto, dissipata quell'immagine spaventosa, quei pochi francesi che ancora si chiedevano se fosse il caso di continuare, no? con personaggi, appunto, come Sarkozy, come Macron, che sono personificazione non proprio del capitale, ma di una certa famiglia capitalista contro un'altra famiglia capitalista, perché poi è sempre, non va mai visto come un complotto unitario, no? Questo del trionfo dell'economia sulla politica. Cioè, una volta risolto questo problema, lasciatemi dire a quel punto, ma perché non provare anche noi una specie di Meloni in Francia? Perché di questo stiamo parlando, secondo me. E quindi magari, appunto, finita la luna di miele, chissà, poi anche in Francia si potrebbero aprire altri scenari. Qui da noi non saprei cosa dire, nel senso che invece l'Italia è una notable exception, proprio perché da noi quello che sta succedendo è che evidentemente agli italiani questo modo di condurre il paese non dispiace. Sì, è vero che il PD cresce di 5 punti, ma lì mi sembra che ci sia più che altro un travaso di voti, no? Dal Movimento 5 Stelle, che è sostanzialmente sparito nel racconto mediatico, verso il PD e verso AVS, che è il partito che ho votato io. Io sono molto contento che Ilaria Salis sia stata eletta, e che quindi mi immagino l'immunità venga liberata dai suoi arresti domiciliari in Ungheria. Però al di là di questo, quello che a me interessa è qual è una prospettiva di una coalizione per costruire un'alternativa. È giusto che la Schlein si candidi a guidarla, anche sulla base di questo crescente consenso, che sono contento che si consolidi la sua segreteria rispetto alle solite pulsioni centrifughe interne. Però insomma, da qui c'è un cammino abbastanza complicato da fare. Ci sono sempre questi partiti civetta che mi ricordano molto i repubblicani di Spadolini, cioè che si piazzano lì in mezzo, appunto col preciso obiettivo di far fallire qualsiasi proposta definita conservatrice o progressista, e parlo naturalmente di Renzi e Calenda, che non hanno ottenuto il quorum in Europa, ma hanno fatto ciao con la manina e hanno continuato a ricordarci che esistono. L'ultimo pensiero per me va davvero a loro, che dovrebbero rappresentare con il loro misero 7% in due una specie animale, i cosiddetti liberal democratici, che insomma da sempre fanno la sponda alle destre, da sempre fanno quel gioco di cui parlavo prima, no? Cioè di volta in volta sempre e comunque aiutare le peggiori pulsioni populiste del paese per giustificare il trionfo dell'economia sulla politica. Ecco, questo io credo che sia il vero tema centrale su cui lavorare nei prossimi anni, a partire per esempio dal salario minimo, che guarda caso dovrebbe essere il ritorno della politica, del primato della politica sull'economia. Se ci riusciremo, avremo fatto un grossissimo passo avanti.